Oh, accidenti, che bel pezzo, l'hai scritto tu? Io no, amico, l'hanno scritto il Line of Sky, vabbè, insomma, è un pezzo del 74. Oh, wow, ma allora è un pezzo moderno e originale? Ma sì, ma certo, puoi scommetterci, amico, moderno e originale come è originale questa radio, Radio Raw. Insomma, più o meno originale, insomma. Va bene, ragazzi, se non avete ancora capito, questo è un mero esperimento di radio. Mero. Se qualcuno di voi sa cosa vuol dire mero, me lo venga a dire. E resto in attesa che qualche altro kamikaze fra di voi si unisca, magari che mastichi un po' di informatica, anche perché non capisco una mazza di streaming. Non posso certo fare video su YouTube tutte le volte che devo mandare in onda una puntata, perché sennò è un delirio. Apri la porta, Al. Al, apri la torta. Mi senti, Al? Mi senti? Al, apri la porta. David, sappiamo tutti e due che non è possibile. David, mi sembri sconvolto. Forse ultimamente qualche cosa non è andata come doveva. Ma adesso mi sento molto meglio. Se vuoi, ti canto una canzone. Sì, Al, cantami un pezzo. Giro, giro, tondo, cara la schermo. Oh, eccoci. Allora, sì, pronto? Sì, la regia, se mi date un po' di voce, per favore, grazie. Allora, dunque, eccoci tornati dunque nello studio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Se anche a voi il caldo ha totalmente bruciato il cervello, siete capitati nel posto giusto. Da oggi qui a Radio Raw apriamo una nuova rubrica che con grandissima fantasia abbiamo chiamato... Abbiamo chi si sono solo? Boh. L'angolo di Raw! Allora, visto che gente come Alberoni, Costanza Rossella tiene rubriche di sociologia spicciola, tiene al singolare Caproni perché il soggetto è gente, allora, in cui praticamente scrivono... Cioè, tutto quello che l'andropausa suggerisce loro di minuto in minuto, mi sono detto, beh, ma se cani e porci rispondono alle lettere delle persone, io che ogni tanto sbavo come un cane e soprattutto mangio come un porco, sono automaticamente legittimato a fare altrettanto. Quindi, cari ascoltatori, perché non sentite anche voi le vocine come me? Da oggi apre questa rubrica in cui risponderò alle vostre domande. Chiedetemi tutto quello che volete sul sesso, lavoro, problemi di cuore, problemi di fegato, salute, politica. Io vi risponderò totalmente a casaccio e metterò a vostra disposizione chicche di saggezza delle quali non potrete più fare a meno. Scrivetemi le vostre domande, i vostri problemi, no, meglio le vostre domande, i vostri problemi, non me ne frega niente, a liberopensieroberto@libero.it, tutto attaccato, per favore. La ripetiamo, liberopensieroberto@libero.it. E dico sul serio, cioè nel senso che è una rubrica ironica. Puh, scusate, avevo tre ro a spingola. E possiamo mandarla avanti insieme, insomma. Ora andiamo avanti, insomma. Bando alle ciance. Cosa sono le ciance? E poi perché si fa un bando sulle ciance? Vabbè, e cominciamo a leggere i vostri primi messaggi. Dunque, Rosario da Partinico, in provincia di Palermo, ci scrive: ciao Ro, nel mio piccolo paese c'è una concentrazione di mafiosi così alta che quando chiede a un passante scusi che ora è, quello risponde io non c'ero. Io sono contro la mafia e contro l'omertà, cosa mi suggerisci di fare? Dunque, cosa ti suggerisco di fare? Intanto Rosaria, grazie della tua domanda. Non vorrei mica spaventare i nostri amici turisti in ascolto con la favola della mafia, vero? Rosaria, non farti suggestionare dalla televisione. La mafia non esiste. Lo sappiamo tutti, quindi stai tranquilla. Vivi serenamente nel tuo bel paesino, non farti problemi. E comprati un orologio. Salutiamo i nostri amici siciliani, che la Sicilia è molto bella e le cassate sono favolose. Vabbè, allora l'altra lettera viene da Bruno da Genova. Ciao Ro, ho un problema con la mia ragazza. Lei ha sempre voglia di fare sesso. Bruno, sono problemi questi, eh? Allora, continua e dice che io non gli basto più, non le basto più, effettivamente non riesco a soddisfarla tutte le volte che vuole. Cosa devo fare? Grazie Roa, sei grande, ti ascolto sempre, bla bla bla bla bla. Bruno, grazie a te innanzitutto, anche perché ci segui sempre con affetto, soprattutto perché questa è la prima volta che trasmettiamo. Devi capire che se ami la tua ragazza non puoi lasciarla così insoddisfatta. Se vuoi conservare l'amore, aspettate un attimo che devo mettere via la chitarra, perché voi vi chiederete: ma come fa la musica ad andare avanti se ho messo via la chitarra? Questi sono i misteri di un DJ. Allora, infatti io non sono un DJ. Dicevamo, quindi, se vuoi conservare l'amore, ecco, con questa ragazza, io ti consiglio di farla uscire con altri uomini. Tanto si tratta solo di sesso, dai, non stare lì a guardare sti particolari. Lei comunque ti amerà di più, te lo posso assicurare. Dunque, dopo eventualmente chiamaci qui in studio, ci puoi lasciare tutti i dati direttamente lì anche in redazione, soprattutto il numero della tua ragazza, mi raccomando. Vedrò cosa posso fare per aiutarti personalmente. Dunque, Andrea da Padova ci scrive: ciao Ro, ieri il mio capo ha detto che mi licenzia perché uso internet per motivi personali, ma io ho solo mandato qualche email. Come posso fare per riavere il mio posto di lavoro? Ciao Andrea, scordati quel posto di lavoro e corri a rifare il tuo curriculum. Però Andrea, mi raccomando, smettila di usare internet durante le ore di lavoro, dai, non si fa, è scorretto, è illegale, non è eticamente giusto. Guarda me, io, cioè, tu lascia stare me, tu rifai il curriculum e basta. Pronto? Sì. Ascolta, c'è una telefonata. Pronto? Sì, sì, aspetta un attimo. Mi dicono che c'è una telefonata direttamente in linea. Io questa cosa non la sapevo, è un fuori onda, cioè un fuori programma, volevo dire. Sì? Ok, ci siamo, la telefonata è arrivata. Pronto? Sì, pronto? Sono Silvio da Arcore. Buonasera, ho un grosso problema. Sono il figlio di Dio, ma nessuno vuole credermi, perché ormai la gente non ha più fede. Ho promesso miracoli, ma la gente continua a chiedermi soldi e posti di lavoro. Sono disperato, non so che fare. Ale, faccio i complimenti per la trasmissione faziosa e spudorata che sta conducendo. Lei sta facendo un uso criminoso dell'etere. Ma porca, ma chi è che mi passa queste telefonate? Io non lo so. Vabbè, ciao Silvio, il mio consiglio è di non dire più che sei il figlio di Dio, per esempio. Magari realizzare lo stesso i miracoli che hai promesso, che dici? Mi spiace che la gente ti chieda banalmente soldi e posti di lavoro, devi comprenderli, sono un po' come bambini viziati. Vabbè, ma tu non preoccuparti più di tanto, tu continua a non darglieli e sei a posto così. In merito al fatto che io sia un criminale, beh, io ti ringrazio, lo metterò sul curriculum così magari riesco a diventare eurodeputato. Vabbè, bene amici, io direi che per il momento, con la prima tranche dell'angolo di Ro, possiamo chiudere. Nel frattempo attendo i vostri messaggi e vi do appuntamento qui, all'angolo di Ro. Ma allora, ma porca, ma chi è che mi gira queste telefonate di merda? Vincenzo. E adesso mettete una mano sulla vostra pancia e una mano sulla vostra testa. Chiudete gli occhi e concentratevi sulla vostra energia. Sentirete scorrere il vostro chi e tutto vi sembrerà più luminoso. Era in mano con chi cazzo dalla Cina, che teneva un corso su come perdere tempo la domenica pomeriggio. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Rubriche Inutili del Mondo. La prossima volta impareremo a restare concentrati su un cruciverba mentre ci fanno la ceretta sulla schiena. Oh, eccoci qui di nuovo. Allora, buongiorno. Buongiorno cari amici ascoltatori, allegria. Pronto? Sì, scusate, dalla regia mi dicono che questa frase viene già usata da un altro. Il bello è che non c'è nessuna regia perché sono qui da solo. Però non sono pazzo, lo giuro. Io non sono pazzo. Ah! Ah! Oddio! Aiuto! Elefanti alati mi stanno girando sulla mia testa! Aiuto! Andate via! Aiuto! Allora, dicevamo, buongiorno ragazzoli, oggi apriamo una nuova rubrica che trasmetteremo in alternativa all'angolo di Ro. Si intitola L'intervista che non esista. Sì, allora, qualcuno penserà che si tratti di un congentivo, l'intervista che non esista, ma invece in realtà non trovavo la rima, quindi ho dovuto fare per forza in quel modo. Allora, è venuto a trovarci il nostro amico Mario Dattelgate, dalla provincia di Bergamo. Mario dice... Scusate, ma ho bisogno di prendere della strumentazione, insomma... Mario dice di essere... l'ambasciatore dei cosiddetti alieni grigi per la provincia di Bergamo. Allora, prego un momento di silenzio dalla regia. Prego, accomodati. Buongiorno Mario. Buongiorno. Senti Mario, ti faccio subito una domanda che, come me e molti ascoltatori, sicuramente si stanno ponendo in questo momento. Ma i grigi parlano il dialetto bergamasco? Pota su mia, miei ciame, allora arriva chi? E cioè, in italiano cosa vuol dire? Ah, scusa, vedi, non lo so mica, io li chiamo e loro vengono qui. E spiegaci com'è stato il primo incontro, insomma, in italiano, per favore. Pata, io ero lì in cantiere, stavo intonacando a fine la facciata esterna di una villa e ad un certo punto ho sentito un rumore fortissimo, come di una betoniera che si sta sfasciando, capito? Sì, certo, le betoniere che si stanno sfasciando fanno un rumore terribile. Oh, ma te mi giro e vedo un piccolo uomo, sarà stato basso un metro e una cazzuola, tutto abbronzato con la canottiera bianca. Ho pensato, pota, che lì è Terun. Terun? Ma scusa, ero marziano. Lui cosa ti ha detto? E lui Amadis: salve terrestre, veniamo in pace e vogliamo darti un messaggio stellare importantissimo. E io gli ho risposto: va bene, basta che ti sbrighi che mi si secca la malta. No, aspetta un attimo, scusami. Mario, un marziano viene da te e ti dice che ha un messaggio stellare importantissimo e tu gli rispondi che si secca la malta. Senti, mico te lo buravo tu al dia, mi pagano a cotti ma non posso perdere tempo. Vabbè, lascia stare. E poi che ti ha detto il grigio? Scusami Mario, ma come hai fatto a capire che era un grigio? Te, sulla canottiera c'era disegnato uno come lui con gli occhiali da sole e la scritta: io sono un grigio. Comunque mi ha detto... conosciamo tutte le lingue dell'universo, ma i nostri traduttori stellari non capiscono il dialetto bergamasco. Quindi ti nominiamo interprete ambasciatore ufficiale dei grigi sulle terre di Bergamo. Ma cavolo, è una cosa stupenda, una cosa eccezionale. E tu cosa gli hai risposto? Io l'ho guardato negli occhi. Lui mi guardava in silenzio aspettando la mia risposta. E io ho detto, pota. Da quel giorno ogni tanto scendono in cantiere e mi chiedono di fare d'interprete per parlare con altri bergamaschi. Abbiamo fatto amicizia, io li faccio lavorare un po', mi portano a sacchi di cemento, gli faccio impastare la malta. Gli ho anche insegnato un paio di proverbi bergamaschi, che loro dicono agli altri grigi e sull'astronave ridono un po' tutti. Che bello, gli hai insegnato i proverbi... in bergamasco, cioè tu hai grigi e hai insegnato i proverbi in bergamasco, non so, dimmi a qualcuno. Allora gli hanno insegnato un paio carini. Allora, ho il tempo al culo e fa che il kivir, che vuol dire il tempo al culo fanno quello che vogliono. L'altro invece più bello ancora è tutta roba che va al culo fa che il manico del casul. Vuol dire tutta roba che va al sedere meno il manico del maestro. Che simpatico il nostro amico Mario. Vabbè, ora chiudiamo qui perché ho paura di sapere quali altri proverbi Mario ha insegnato ai grigi. Sì, va bene, ok, lasciamo stare. Allora, a proposito di alieni e di marziani, abbiamo un grandissimo ospite qui da noi a Radio Ro. È venuto a trovarci, è Eugenio Finardi. Bravo, bravissimo, che è bastardo. Allora, Eugenio Finardi ci canterà una parte della canzone bellissima che ha scritto a proposito di extraterrestri. Ci può accennare un pezzettino? Oh extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vieni a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Ok, grazie Eugenio Finardi che è venuto a trovarci per cantare questi 5 secondi di canzoni. Di più non potevamo perché non abbiamo i soldi per la SIAE. Ragazzi miei, io mi sono totalmente perso nei meandri della mia mente. Totalmente perso. Totalmente perso. Perso. Andrea si è perso. Andrea si è perso. Si è perso. E non sa tornare. Andrea si è perso. Si è perso. E non sa tornare. Andrea aveva un amore. Andrea aveva un dolore, briciole ieri. C'era scritto sul foglio che era morto, sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia. Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea ha perso l'amore. La più rara, Andrea ha perso un po' con dolore, la perla più scura. Andrea raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Mi basta, mi basta. basta che sia più profondo di me. Ecco, quella buona anima di Fabrizio De André si sta ribaltando nella tomba, perché questa era una mia versione della canzone Andrea, dove eseguivo le due chitarre, il basso, le percussioni, le doppie voci, e poi mi vengono a parlare di personalità multipla. Insomma, bentornati ragazzuoli, è sempre il vostro Ro che vi sta parlando da Radio Ro. Se siete ancora qui, allora vuol dire che siete abbastanza folli da farvi ancora sussurrare la mia caldissima voce direttamente nei vostri cervelli. E con piacere che posso annunciare la seconda parte della rubrica più amata della galassia. Signore e signori, l'angolo di Ro. Ci sono arrivate un sacco di mail in redazione nel frattempo. Si dice mail o mails o mailies? Se qualcuno lo sa, per favore ci scriva al libro pensieroberto@libro.it. Allora, ci scusiamo subito se sarà impossibile praticamente rispondere a tutti, ne arrivano centinaia, ma che dico centinaia? Centinaia, ne ho strappolato qualcuna, diamo un'occhiata. Allora, eccolo qua. Allora, Riccardo da San Donato Milanese, Milano. Ciao Ro, ultimamente mi sento molto frustrato, perché ho una laurea in ingegneria meccanica. Scusate, devo abbassare sta roba qua, perché, scusate, è regia, allora mi spieghi cosa stai facendo? Allora, stavo dicendo. Dunque, mi sento molto frustrato, dice Riccardo. Ho una laurea in ingegneria meccanica, ma ho trovato un lavoro che non c'entra molto. Faccio lo scrostatore di chewing gum sotto i posti a sedere della metropolitana gialla. Mi pagano poco e faccio turni massacranti. La gente poi è proprio caffona. Appena mi vedono all'opera, si mettono a masticare chewing gum e lo attaccano sotto al loro posto solo per vedermi mentre mi sdraio per terra e faccio il mio sporco lavoro. Cosa devo fare? Ciao Riccardo, ognuno di noi ha i suoi problemi. Tu per esempio sei nato in Italia, sappiamo tutti non essere il paese adatto per laurearsi in ingegneria meccanica. Però guarda il lato positivo, Riccardo, tu puoi guardare sotto le gonne delle donne senza essere preso per maniaco. E poi, fidati, ti è andata bene. Un mio amico è architetto, ma attualmente fa il collaudatore di preservativi per elfi. Elisa D'Ancona ci scrive: ciao Ro, ho un problema molto serio. Vedo i fantasmi. Li vedo anche di giorno, al bar, in ufficio, in autobus. Loro mi guardano in silenzio, non dicono niente, ma alzano una mano come se chiedessero aiuto. Fino ad oggi non l'ho detto a nessuno, ma non resisto più. Che faccio? Cara Elisa, se fino ad oggi non l'hai detta a nessuno, ti consiglio vivamente di continuare a non dirlo a nessuno. E poi guardali bene, Elisa, non è che li scambi per fantasmi e invece sono lavoratori precari col contratto in scadenza? Hans da Bolzano ci scrive: ciao Ro, ho una proposta di legge per i calciatori, pagarli in acqua minerale e yogurt, che ne dici? Caro Hans, sfondi una porta aperta. Io ho una particolarissima simpatia per i calciatori, per loro avrei pensato ad altro. Ecco, se io fossi il presidente di una delle loro squadre, li pagherei sì milioni di euro, ma solo se al momento del ritiro della busta mi leccano lo sfintere anale subito dopo un attacco di dissenteria. In alternativa, acqua minerale e yogurt. Secondo te verrebbero ancora a prendere lo stipendio? Allora, Fausto da Gavorrano ci scrive: buongiorno Ro, le vorrei chiedere, attenzione, questo mi dà del lei, le vorrei chiedere se è possibile cambiare la vostra programmazione radio, perché siete noiosi e ripetitivi e scegliete dei pezzi musicali di dubbio gusto. Oltretutto lei non fa ridere ed è l'imitazione mancata di Robin Williams in Good Morning Vietnam. La ringrazio vivamente per l'attenzione, Fausto. Fausto, ho una sconvolgente rivelazione da farti. Se giri la manovella della tua radio verso destra o verso sinistra, la frequenza cambia e puoi addirittura ascoltare altre radio. Guarda un po', Quindi, Fausto, addio. Beh, ragazzuoli, per oggi direi che di Lettere Folli, insomma, siamo al completo. Visto che io non faccio ridere, ma figurati, guardate cosa mi tocca leggere. Allora, visto che noi, e quando dico noi, intendo anche voi, testine disabitate, che non siete altro, qui a Radio Ross siamo dei veri duri e nessuno può fermarci, andiamo avanti e ce ne sbattiamo della morale comune. Noi siamo i ribelli, noi siamo gli emarginati, noi siamo quelli che non vorresti mai incontrare in metropolitana a luna di notte quando non c'è nessun altro in giro. Noi siamo quelli che per guardarli in fotografia non c'è bisogno di sviluppare il negativo. Noi siamo... No, noi non siamo gente per bene. Noi siamo pirati. Alzate il volume a palla, miei piccoli pirati allo sbando, e scaldate le corde vocali. Sta arrivando, lo sento. È il rock di Capitan Uncino. Possibile che nessuno si muova? Ma sono il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Non sono il Capitano Uncino. E allora quando vi chiamo, lasciate tutto e correte, fate presto perché ti arriva tardi lo sbrano. Avanti che metta notizie di Peter Pan. Lo voglio vivo però, quando lo acchiappo non so che cosa gli farò. Si prende gioco di me e fa il gradasso perché quei branchi di moccio lo stanno ad ascoltare. Lo credono un eroe, ma è solo un qualunquista, un esibizionista. Di tutti i miei nemici è il più pericoloso, è il primo della lista. Ma a voi vi sembra giusto durante un duello? Ha preso la mia mano, l'ha data in pasto a quel dannato coccodrillo. Ma non la passa liscio, gliela farò pagare con le mie stesse mani, anzi col mio uncino. Lo dovrò scannare. Eccolo in vista, e lui con tutta la banda. Meglio che questa volta si arrenda. Non voglio prigionieri, mi basta solo uno ostaggio. La ragione dalla vostra parte, ricordatevelo. Avanti all'arrembaggio. Non sono il Capitano Uncino, eh? E allora avanti col coro. Cantate tutti con me e ripetete con me gli slogan che vi ho insegnato. Ritirati noi insieme, col sistema lo fiamo. Siamo a scuola a far la faccia dura per fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di strano? Facciamo un gran casino, al mondo la vogliamo per Capitano Uncino. Io sono il professore della rivoluzione, della pirateria. Io sono la giù nel mare. batte la fiacca, eh? Io mi sacrifico per voi e questo è il vostro ringraziamento. Ragazzi, questa sì che è energia, allo stato puro. Se avete strappato i vostri vestiti, se avete gettato dalla finestra i vostri libri, se avete mandato al diavolo tutte le persone che vi stanno intorno, dicendo basta, io non ce la faccio più, non ce la faccio più a sentire cosa mi devi dire tu, e i doveri che mi devi trasmettere, e tutto quello che io devo fare, devo, io non ce la faccio più. Beh ragazzi, se voi vi sentite così in questo momento, allora vuol dire che vi trovate nella radio giusta. Purtroppo però temo che questa prima puntata di Radio Raw volga al termine. Io mi sono divertito davvero molto. E voi? Su, su, non piangere. Sono sicuro che ci rivedremo un giorno. Perché sarà il destino a riunire le nostre strade. No, Radio Raw, no, non lasciarmi, ti prego, ti prego! Anche per questa sera le trasmissioni sono terminate. Grazie per essere stati con noi e a risentirci alla prossima puntata. Buonanotte. Ciao!